Ciao ragazze! Ciao! Ciao! Dai, va bene, iniziamo! No, no, the secret part. The people down below, we all wanna know how to play the game of life before we got to go. He looked at me and said, I've pondered long, listening to Mother Nature's song. And let me tell you, son, life ain't just for fun, but if you want to have a ball, here's how you get it done. You got to do it. Buonasera, buonasera ascoltatrici e ascoltatori di Radio Wombat. Questa è Nervature, io sono Addu. E quindi eccoci qui, lunedì 26 maggio, 19.04 nel mio universo. Questa è una nuova puntata di Nervature, appunto come stavamo dicendo, che come sentite inizia un po' all'insegna della musica e quindi godiamocela. Ed eccoci qui, allora, come dicevamo, con questa nuova puntata di Nervature. Ebbene, bene, bene, oggi, vabbè, qui da sole in regia, giornata soleggiata, veramente piacevole, temperature a dir poco ottimali, ancora non siamo nel caldo estremo, e che dire, il report di oggi è fatto. Bene, bene, bene, ricordiamo quindi i contatti, siamo su Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze, ci trovate dal sito radiowombat.net, andatelo a spulciare per tutti i podcast passati, presenti e futuri, chissà, non si sa mai. Trovate anche la sezione contatti, sempre sul sito, da cui trovate tante informazioni interessanti, per esempio il link del pad, il foglio di testo condiviso che noi usiamo per chiacchierare con voi in diretta. E il link, però ve lo dico anche qua, è diretta@wombat.vado.li. Mi raccomando, non esitate a scriverci, farvi sentire per domandine, dubbi, saluti, quello che volete. fra oração, mil vezes cantarei. Vai, alá, vai, sapatana, ave Maria. Vai, alá, vai, sapatana, ave Maria. Ed eccomi allora di nuovo qua, mi rifaccio sentire, sì, oggi è andata così, un bel po' di musica in apertura che non ci sta mai male, ma anche in chiusura, ma anche nel mezzo, diciamolo. La musica è bella, c'è poco da dire, ma allora veniamo a noi con questa puntata di Nervature, si sta rivelando particolarmente tranquilla, direi. Allora... Sì, è tranquilla, ribadisco che lo resterà fino alla fine di oggi, però in realtà due o tre cosine ve le volevo dire e l'argomento di oggi è la biodiversità, che voi direte, facile, un argomento semplice, hai scelto per una puntata dove vuoi dire poche cose. Non avete tutti i torti, però va bene così. Tanto è un argomento di cui abbiamo già parlato tante altre volte da vari punti di vista e sicuramente questa non sarà l'ultima volta, perciò ben venga a riparlarne anche se con una puntata appunto più tranquilla, quindi con meno contenuti, un po' più musicale, ma va bene così lo stesso. Allora quindi la puntata di oggi si compone di due contributi. Due, sì, diciamo contenuti più che altro. Il primo è un articolo che vi andrò a leggere a molto breve e l'altro invece è un video, che vabbè in realtà è un audio perché tanto il video è inutile, quindi infatti voi sentirete solo l'audio, di un'intervista a un ricercatore professore di università. Vedremo poi dopo di cosa si tratta meglio. Direi quindi di andare innanzitutto con la lettura di questo primo articolo. E allora di che si tratta? È un articolo che ho preso dal blog Picaia, di cui vi ho già nominato, un blog di divulgazione scientifica molto ben fatto, ve lo consiglio. E quindi l'articolo è Diversità oscura, come l'impronta umana cancella la biodiversità. Veniamo un po' allora alla lettura di questo articolo. L'impatto della presenza umana sulla biodiversità naturale delle piante è devastante in moltissimi ecosistemi del pianeta. Fino a 4 specie di piante su 5 sono assenti dai loro habitat naturali nelle aree a maggiore impronta ecologica umana. L'indice misura la quantità di risorse naturali che consumiamo o degradiamo a causa, per esempio, di urbanizzazione o di inquinamento o del disboscamento. Questo è quanto emerge dallo studio internazionale collaborativo DarkDivNet, pubblicato lo scorso aprile su Nature, che ha coinvolto oltre 250 scienziate e scienziati di tutto il mondo. Sono stati ben 15 i botanici e le botaniche di 9 università italiane impegnati in questo studio, fra cui il professore Alessandro Chiarucci del Unibo, membro del comitato scientifico di DarkDivNet. Ricercatrici e ricercatori hanno raccolto dati di biodiversità in quasi 5.500 siti di 119 regioni del mondo, registrando non solo le specie vegetali presenti in ogni sito, ma anche le specie autoctone che dovrebbero esserci e invece risultano assenti. L'innovativo approccio scientifico ha identificato quindi quella che hanno definito diversità oscura. Ciò ha consentito di calcolare il potenziale della diversità vegetale di ogni area e rivelato quanto l'impronta umana l'abbia ridotto. Continuiamo allora nella lettura. Nei territori tutelati da aree protette, gli ecosistemi contengono in genere più di un terzo delle specie potenzialmente idonee, mentre quelle assenti lo sono soprattutto per cause naturali, come i limiti biologici della loro capacità di dispersione. Dove invece l'impronta umana è maggiore, la quantità di biodiversità assente è invece elevatissima, con ecosistemi che arrivano a contenere anche solo una specie idonea su 5. Le misurazioni tradizionali della biodiversità impiegate fino ad oggi, come il semplice conteggio del numero di specie registrate, non offrivano un quadro completo. L'identificazione della diversità oscura ha permesso di colmare il gap conoscitivo. La relazione fra l'indice di impronta umana, che rileva fattori quali densità della popolazione, urbanizzazione, agricoltura e infrastrutture, e la diversità oscura, ha dimostrato inoltre che l'impatto antropico si estende ben oltre le aree direttamente modificate, fino addirittura a centinaia di chilometri di distanza, andando così a interessare anche le riserve naturali. Lo studio conferma purtroppo che le nostre attività influenzano negativamente la biodiversità. È quindi necessario supportare al massimo le politiche volte a tutelarla a livello locale e globale. Questo è quanto dichiara il professor Alessandro Chiarucci, del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell'Università di Bologna. E continua. In particolare, è fondamentale continuare la strada intrapresa, aumentando il numero e la superficie delle aree rigorosamente protette, ossia di aree in cui i processi naturali sono liberi di manifestarsi, a tutela della biodiversità presente e anche di quella futura. L'influenza negativa dell'attività umana sulla biodiversità, rileva lo studio, è meno pronunciata quando almeno un terzo della regione circostante l'area investigata è incontaminato oppure ben protetto, a sostegno dell'obiettivo globale di proteggere il 30% del territorio. Il progetto ha sottolineato quindi l'importanza cruciale di promuovere la salute degli ecosistemi, degli ecosistemi entro ma anche al di fuori delle aree protette. Il concetto di diversità oscura fornisce uno strumento pratico per identificare le specie idonee assenti e favorire il ripristino degli ecosistemi. Dark DivNet, coordinato all'Università di Tartu in Estonia, ha visto collaborare, oltre all'Università di Bologna, anche quella di Parma, dell'Aquila, di Insubria, Catania, Palermo, Cagliari, Basilicata e Ca' Foscari, Venezia. Questo è l'articolo di cui vi parlavo. Ma sì, io direi di ascoltarci ancora un po' di musica per poi passare al podcast di cui vi parlavo. Tanto, ve l'ho detto, oggi non c'è fretta. Questo che state ascoltando in sottofondo all'inizio della puntata è San Balanzo Trio, volume 2, Cesar Camargo Mariano. Thank you. Allora, non so voi, ma io sono stata completamente rapita da questa musica. Motivo per cui, già che c'ero, ho fatto finire quest'album. Quindi, questi erano appunto i San Balanzo Trio, volume 2, e sono curiosa di scoprire gli altri volumi a questo punto. César Camargo Mariano. Direi che è arrivato decisamente il momento, quindi, di sentire un po' quello che ci raccontano da questo podcast di cui vi parlavo. Si tratta di sempre un podcast curato dalla pagina Picaia, da cui abbiamo preso anche l'articolo prima, che si chiama La biodiversità al centro, quindi tutti i podcast e video in realtà, ma insomma, che trattano il tema della biodiversità sentendo vari studiosi, insomma, vari esperti. Questo, vabbè, non dico nient'altro, tanto lo introduce direttamente nel podcast, appunto. Ci risentiamo fra un po'. Bentornati alla Biodiversità al Centro. Oggi torniamo con Picaia allo SPOC numero 3 del National Biodiversity Future Center. Parleremo di microbiodiversità, la biodiversità a livello microscopico. È con noi il dottor Diego Fontaneto, ecologo, dirigente di ricerca al CNR IRSA, Istituto di Ricerca sulle Acque, a Verbania, che negli ultimi 2 anni è stato impegnato anche con il Centro Nazionale della Biodiversità. Ciao Diego. Ciao Chiara, è bellissimo rivederti dopo tanti anni che non ci si vede, ed è bello vedere che Picaia continua a esistere e a fare un servizio bellissimo, quindi grazie per l'invito. Grazie, sì, io e te Diego ci conosciamo da tanto tempo ed è davvero un piacere oggi averti qua e poterti intervistare. Raccontaci un po' il tuo percorso che ti ha portato ad arrivare al tuo lavoro adesso di ricercatore. Da ragazzo appassionato di natura come tanti di noi, quindi poi obbligatoria la laurea in scienze naturali, e io volevo fare l'entomologo. Quindi dopo la laurea mi sono buttato sulla libera professione. A un certo punto, dopo 3-4 anni di lavoro, non mi ricordo perché, ho partecipato a un concorso di dottorato a Milano. Entomologo non potevo farlo durante il dottorato, ma potevo scegliere se lavorare sui denti dei rotiferi o sulle braccia delle stelle di mare. Non conoscevo niente di entrambi i gruppi e la mia scelta è stata basata solo sul fatto che le stelle di mare solo al mare, i rotiferi un po' dappertutto anche al mare, e quindi ho scelto i rotiferi. E poi dopo il dottorato un po' di anni di esperienza all'estero tra Inghilterra e Svezia, e poi 10 anni fa sono approdato al CNR a Verbania, e in Italia si sta benissimo anche nel mondo della ricerca. Quindi sono ben contento di lavorare come ricercatore al CNR e anche con i rotiferi. Quindi sei passato dall'entomologia ai rotiferi. Ma chi sono questi rotiferi? Che animali sono? Le stelle di mare le conoscevano tutti, anch'io. Quando durante il dottorato mi hanno chiesto vuoi studiare i rotiferi, anch'io mi sono fatto la tua domanda. Perché a zoologia, durante il corso in università, si studiano perché c'è una mezza paginetta su di loro, ma poi nessuno se li ricorda. Sono animali microscopici, sono mezzo millimetro quelli giganti, negli ecosistemi sono abbondantissimi. In qualsiasi pozza con un po' d'acqua, dai là ai fiumi, ma anche dentro muschi e licheni, sono spesso gli animali più abbondanti di tutti. Quindi grande abbondanza vuol dire che qualche ruolo ce l'hanno, sia di rimuovere batteri o alghe o lieviti dall'ambiente mangiandoli, sia di rifertilizzare l'ambiente dopo che hanno mangiato. Sono anche il cibo di tantissimi altri organismi. Alcuni rotiferi vengono usati e hanno un'importanza economica notevole nell'acquacoltura, quindi vengono allevati i rotiferi per essere dati come cibo ai pesci, soprattutto appena nati, perché a quelle dimensioni i pesci sono così piccoli che non riescono a mangiare mangime, mentre i rotiferi che si muovono davanti agli occhi vengono subito predati e mangiati, e sono animali a tutti gli effetti perché, malgrado siano così piccoli, hanno tutti gli apparati che conosciamo, digerente, riproduttore, nervoso, quindi sono animali veri e propri ultra miniaturizzati. Diego, la parola biodiversità è un po' ovunque, però non è sempre usata nel modo corretto. Troppo spesso ci dimentichiamo che della biodiversità fanno parte anche appunto gli organismi microscopici come appunto i rotiferi. E immagino siano anche meno studiati rispetto ad altri gruppi animali, i vertebrati, ma anche rispetto a altri invertebrati. Cosa ci puoi dire su questo? Sì, hai proprio ragione, Chiara. La parola biodiversità viene usata in maniera diversa a seconda di chi la usa, anche se in origine aveva un significato ben preciso. Era stata chiaramente definita come tutte le differenze a livello genetico tra le specie, all'interno delle specie, le differenze tra specie e il loro ruolo negli ecosistemi. Io da ecologo la misuro e la analizzo in questo modo. Quando però arriva un economista o uno che si occupa di giurisprudenza o uno che si occupa di scienze umane, può usare la parola biodiversità in altri modi. Non che siano sbagliati, semplicemente non è il modo usato da noi ecologi, ma anche noi ecologi e zoologi, o comunque chi si occupa di biodiversità, non usa la parola biodiversità biodiversità nel vero termine della parola. Ad esempio, se io studio la biodiversità del parco di Monza, dovrei studiare tutto dai batteri fino a qualsiasi organismo unicellulare, pluricellulare. Normalmente invece si studiano, ad esempio, gli uccelli del parco di Monza, un campo limitato di quella che è la biodiversità effettiva. Il motivo è che gli uccelli si sa dove sono e è possibile riconoscerli. Dovessi studiare i rotiferi del parco di Monza, ci metterei tutta la mia vita. Nessuno sa bene tutte le specie che veramente esistono e anche in quali ambienti andarli a trovare. Quante specie di rotiferi ci sono in Italia? Si tratta di una biodiversità molto ricca, di quelle che conosciamo chiaramente. Sì, anche questa è un'altra cosa strana. In tutto il mondo sono note 2000 specie di rotiferi. In Italia metà, quasi. Non perché l'Italia sia particolarmente ricca di biodiversità di rotiferi, ma semplicemente perché in Italia ci sono persone che li studiano. Quindi la distribuzione nel mondo dei rotiferi, quando uno disegna una mappa di tutti i record, di tutte le conoscenze che abbiamo, noi esperti sappiamo dire da dove arrivano, perché in quel paese abita qualcuno che se ne occupa o è un posto dove va in vacanza o dove va per studiare. Quindi è una biodiversità assolutamente ignota. Quello che sappiamo al momento sono 2000 specie, la metà in Italia. E quindi anche dal punto di vista della ricerca dà più soddisfazione, perché è molto più probabile, per esempio, trovare una specie nuova di un rotifero, quasi garantito, diciamo, se ti metti a guardare bene? Assolutamente sì, compreso specie nuove in ambienti che uno non si aspetta, tipo l'acqua del rubinetto di casa. È successo a mio collega in Belgio che, aprendo l'acqua del rubinetto, ha guardato per caso se c'era qualcosa, c'era una nuova specie di rotifero. Sì, una puntata precedente abbiamo intervistato parlando di citizen science. Diciamo che i rotiferi non credo si prestino bene a questo tipo di esperimenti. In realtà esiste citizen science sui rotiferi ed è incredibile. La prima volta che io ho caricato una foto di un rotifero su iNaturalist, che è questa grossa piattaforma che raccoglie foto di organismi con coordinate geografiche, ero convinto di essere il primo a farlo, finché non ho scoperto che erano presenti migliaia e migliaia di foto di appassionati microscopisti che col cellulare fanno la foto al microscopio e caricano foto di rotiferi su iNaturalist. Quando mi sono messo a guardare le specie presenti su iNaturalist dei rotiferi, più di metà erano specie ancora mai descritte. Quindi c'è tanto lavoro da fare, anche grazie alla Citizen Science. Per fortuna però il National Biodiversity Future Center, anche col tuo lavoro, si sta occupando della biodiversità sia macroscopica che anche quella micro. Nei tuoi ultimi lavori con il centro ti sei occupato soprattutto di ecologia e dell'evoluzione dei rotiferi bdelloidei, con un'analisi in ambienti poco studiati come ghiacciai e torbiere, quindi molto meno studiati del rubinetto di casa. Ci puoi raccontare qualcosa di questo? Tue ricerche? Sì, assolutamente, perché in quanto naturalista sono sempre stato attratto anche dai viaggi nei posti più assurdi. E i ghiacciai sono un ambiente molto particolare. Il ghiacciaio non è semplicemente ghiaccio, ma ha una struttura molto eterogenea, con piccole pozzettine, con dentro qualche deposito nero, non è sempre ghiaccio uguale, la neve è un po' diversa. E in tutti questi microambienti vivono organismi che si sono adattati a vivere a quegli ambienti. Sui ghiacciai della Groenlandia quest'estate abbiamo girato parecchio alla ricerca di rotiferi e altri animali e organismi che vivono solo associati sui ghiacciai, e abbiamo scoperto una diversità improponibilmente alta, tipo in un unico ghiacciaio fino a 10 specie diverse di rotiferi che vivevano solo sul ghiacciaio, mai trovate da nessun'altra parte, tutte specie nuove. Queste quindi sono i risultati delle tue ricerche della spedizione in Groenlandia. Cosa ci puoi dire un po' di più invece sui ghiacciai italiani? Sì, ghiacciai italiani, primo, sono più raggiungibili di quelli della Groenlandia, ma sono più difficili perché sono anche molto più verticali. Malgrado questo, siamo andati a cercare rotifere sui ghiacciai italiani e ne abbiamo trovati. Paradossalmente pochi, cioè magari tanti come abbondanza, ma pochissime specie. Mentre in Groenlandia c'era una diversità alta, con tante specie diverse anche nello stesso ambiente, in Italia sono poche le specie che veramente vivono sui ghiacciai. La cosa più incredibile è che questi organismi vivono nel ghiaccio e in zone dove poi il ghiaccio si scioglie un pochino, si forma un velo d'acqua, questi organismi resuscitano dal congelamento, mangiano per quel poco che possono fare e quando poi gela di nuovo, congelano e aspettano che il ghiaccio si sciolga di nuovo. Quindi l'altra parte interessante dal punto di vista scientifico non è solo descrivere la biodiversità dei ghiacciai, ma capire come fanno questi organismi a congelare e scongelare più volte durante la loro vita e non morire. Sì, i rotiferi sono davvero degli organismi incredibili. Quali altre caratteristiche biologiche hanno che sono molto particolari rispetto ad altri gruppi? Sì, questa caratteristica del sopravvivere quando l'acqua manca, ovvero quando l'acqua congela o quando l'acqua evapora, è una delle caratteristiche che li rende diversi dagli altri animali. Probabilmente tutta la parte genetica e tutte le proteine che usano per sopravvivere al congelamento non sono di origine animale, ma sono meccanismi che vengono usati da lieviti o da organismi che non c'entrano niente con gli animali. Perché i rotiferi bdelloidei sono in grado di catturare DNA dall'ambiente, metterlo dentro nel loro genoma e usare questi geni. Quindi il trasferimento orizzontale di geni insieme alla capacità di sopravvivere quando manca l'acqua sono le due caratteristiche uniche nel mondo animale. Quindi dovevano darglielo a loro il Nobel per CRISPR invece che alle due scienziate. No, volevo dire per ridere, negli anni 70 sono stati considerati uno scandalo dal punto di vista evolutivo perché facevano cose che non potevano esistere, cioè sopravvivere senza fare sesso. Questa cosa probabilmente del sopravvivere solo come femmine che producono figlie tutte uguali è possibile grazie alle altre loro caratteristiche assurde di sopravvivere in assenza d'acqua e di avere capacità di attirare geni da fuori e quindi aumentare variabilità. E il premio Nobel glielo si poteva dare perché teoricamente loro non possono esistere e non possono fare quello che fanno. O non lo sanno che non possono, oppure hanno inventato dei metodi che ancora noi non conosciamo e per cui sarebbe interessante scoprire per avere poi ricadute anche sulla salute umana. Oltre ai vari habitat che dove li troviamo nella Terra, è vero che sono stati mandati anche nello spazio? Assolutamente sì, sono tra i primi organismi che sono stati mandati sulla Stazione Spaziale Internazionale per vedere gli effetti su un organismo vivente dell'esposizione ai raggi cosmici all'esterno. Non solo sono stati mandati sulla Stazione Spaziale, ma sono stati messi fuori dalla Stazione Spaziale e poi sono stati rimandati a Terra. In laboratorio avevamo le loro sorelle cugine mai mandate nello spazio, ma sempre tenute in laboratorio. Quando sono ritornate quelle dallo spazio, le abbiamo confrontate per vedere se c'erano differenze nel tassi riproduttivi, quanto a lungo vivevano. In realtà non è cambiato niente. Animali tenuti sulla Terra o animali mandati fuori dalla Stazione Spaziale, quando sono stati messi a confronto, come se fossero andati al bar, tutti insieme, allegramente, senza soffrire nessuna delle condizioni estreme fuori nello spazio. Insomma, Diego, questi rotiferi sono degli animali straordinari. Tu sei fortunato che puoi andare a fare queste spedizioni, scoprire specie nuove, insomma, sono davvero senza fine per l'interesse scientifico che possono avere. Ma dal punto di vista della vita di tutti i giorni, cosa serve studiare i rotiferi? Se un rotifero, diciamo, vive 20 giorni, dopo 5 giorni io lo metto a secco, aspetto 10 anni, dopo 10 anni gli rimetto l'acqua, lui deve vivere i 15 giorni che gli mancavano. In realtà ne vive 18-19. Cioè, ogni volta che va a secco e torna in acqua, quando torna in acqua ringiovanisce un pochino. Quindi hanno anche dei meccanismi non solo di riparo del DNA, di tutti i problemi che ci possono essere, ma anche di ringiovanimento cellulare ogni volta che sono messi sotto stress. Fosse così, saremmo tutti immortali. Nella nostra vita stressante di tutti i giorni, se ogni volta sotto stress diventiamo più giovani, riuscissimo a scoprire come conservare il cibo secco o congelato per decenni e lo si fa ritornare freschissimo aggiungendogli l'acqua, come fanno i rotiferi, avremmo risolto parecchi problemi di conservazione del cibo a lungo termine. Non solo, fantascienza, io ho una malattia incurabile, mi congelo, come fanno i rotiferi. Quando risolvono il problema di come curare questa malattia, i miei discendenti mi sciolgono e mi curano, perché ho risolto il problema di conservare un organismo in vita per decenni, se non secoli. E questa cosa non è fantascienza, cioè sull'uomo sì, ma sul fatto che i rotiferi sopravvivano per decenni, secoli o millenni, sono stati trovati rotiferi estratti vivi da un permafrost in Siberia che era stato congelato 24.000 anni prima. Scoprire come sopravvivere per 24.000 anni è sicuramente un vantaggio notevole. Un'altra cosa importante è come fanno a riparare il DNA quando tornano in vita e ritorna l'acqua liquida. Il che vuol dire che se si scopre come riparano problemi genomici, abbiamo risolto un po' di malattie di origine genetica, ma potenzialmente anche cancro o invecchiamento cellulare e molte altre malattie legate agli aspetti di problemi genomici. Il problema di lavorare con i rotiferi dal punto di vista molecolare è che molti dei protocolli che funzionano su tutti gli altri animali e piante che si usano normalmente non funzionano sui rotiferi. Molta gente ci prova a lavorarci per dal punto di vista molecolare e poi abbandona perché non ci sono protocolli sensati per poter scoprire i meccanismi alla base delle loro capacità straordinarie. Diego, invece adesso di che cosa ti occupi? Su cosa stai lavorando? Che progetti hai all'attivo? Tanti, sempre sui rotiferi, due principali. Uno è fare in modo che tutte le conoscenze che abbiamo sui rotiferi scritte nel passato diventino di dominio pubblico. pubblico. La cosa che stiamo cercando di fare è recuperare tutte queste informazioni, renderle digitali, con coordinate tutte le possibili informazioni aggiuntive e caricarle su portali online per l'utilizzo futuro a chiunque ne abbia bisogno. La piattaforma che utilizziamo è una piattaforma internazionale che si chiama GBIF, Global Biodiversity Information Facility. Noi la utilizziamo come italiani all'interno del centro nazionale proprio per rendere immediatamente disponibili a tutti in Italia e al di fuori tutti i dati che esistono di biodiversità geolocalizzata nello spazio. Quindi abbiamo fatto anche delle attività di raccolta di dati e di organizzazione di volumi speciali per alcune riviste, ad esempio per aumentare la conoscenza della biodiversità delle acque dolci italiane. Mentre poi altri progetti che seguo più dal punto di vista scientifico sono cercare di capire come i rotiferi interagiscano con gli altri animali, soprattutto perché ci sono rotiferi che vivono attaccati ad altri animali, altri anche che vivono dentro nell'intestino di altri animali, e quindi stiamo cercando di fare una review di tutto quello che si sa, e poi siamo usciti sul campo a raccogliere tantissimi animali invertebrati e vertebrati nell'ambiente e cercare di vedere i rotiferi attaccati a loro, compreso quelli sui denti dei coccodrilli, dove ce ne sono veramente tanti di rotiferi. Un po' pericoloso come lavoro, però altamente redditizio dal punto di vista di nuove conoscenze. Chi l'avrebbe detto che studiare i rotiferi ti avrebbe portato a guardare nella bocca degli alligatori? In Italia, dov'è che vorresti davvero andare a vedere se ci sono dei posti dove non hai campionato, non so, dentro un vulcano, qualche lago remoto? Qual è il sogno, diciamo, della spedizione? Beh, al momento è trovare rotiferi in grotta, perché purtroppo tutte le volte che sono entrato in grotta a cercare rotiferi, anche nelle stagni che sono pieni di altri organismi che vivono in grotta, rotiferi non ne ho ancora mai trovati. E questo è vero in tutto il mondo o solo nelle grotte italiane? Sembrerebbe in tutto il mondo. Di notizie di rotiferi in grotta ce ne sono veramente poche e spesso collegate a arriva un'alluvione, riempie la grotta di acqua da fuori, quando poi filtri quell'acqua trovi dei rotiferi che probabilmente sono arrivati da fuori. Era una delle ipotesi che abbiamo iniziato a fare, era che probabilmente hanno comunque bisogno di luce per mangiare alghe o qualche particolato organico che è collegato alla luce. Per cui magari se in grotta non ci sono alghe, solo con batteri o solo con particolato organico non riescono a sopravvivere. Però anche di questo non ne siamo così sicuri, perché nel sottosuolo, non in acqua, ma se uno scava una carota di sedimento nel suolo e va a mezzo metro di profondità al buio, lì i rotiferi che mangiano batteri se ne trovano. Prima di essere sicuri che i rotiferi non vadano in grotta e di porre ipotesi del perché, vorrei essere sicuro che non ci sono rotiferi in grotta. Quindi prima cominciamo a esplorare un po' di grotte. Nessun rotifero è sicuro con te che vai a cercarli. Grazie a Diego Fontaneto, ecologo del CNR IRSA a Verbania, impegnato nello SPOC 3 del National Biodiversity Future Center. Non guarderemo mai più a una goccia d'acqua nello stesso modo. Grazie di tutto, buon lavoro e alla prossima. Gaia vi dà appuntamento alla prossima puntata. Thank you. Ed eccomi allora di nuovo qua con la mia vocina che riprende il sopravvento su questa ancora super bella musica. Oggi è proprio, ci è andata bene con questa, cioè mi è andata, vi è andata bene, anzi con la mia selezione musicale. E, allora sì, mi era piaciuto questo podcast che vi ho rigirato e vi ho fatto risentire anche a voi. Perché? Perché spesso si parla, per fortuna ormai, di biodiversità, perché abbiamo capito che è una cosa veramente molto importante che, detta in spiccioli, ci salva il culo e ci salverebbe il culo a noi umani. Però a me sembrava che spesso se ne parla, anche ovviamente in un certo senso, da un punto di vista generale, anche perché la parola stessa, biodiversità, che cosa mi evoca? Mi evoca un insieme di tanti elementi, di tante specie, tantissime specie, e quindi ovviamente si sta parlando di un qualcosa che comprende tanti, appunto, individui, tanti elementi, anche più di un ecosistema volendo, e quindi se ne parla in generale. Però poi e si dice chiaramente la biodiversità è importante, bisogna tutelarla, addirittura cercare di favorirla, eccetera, eccetera. Però spesso non ci rendiamo conto di che cosa implica il fatto di parlare di biodiversità. Per esempio, come diceva appunto, come avete sentito nel podcast, se uno dovesse studiare davvero la biodiversità di un qualsiasi ecosistema, un posto a caso nel mondo, dovrebbe studiare tutti gli esseri viventi presenti, che vanno appunto da microrganismi a animali microscopici, a invertebrati comunque molto piccoli, a un sacco di cose, piante ovviamente, funghi e veramente un sacco di roba. Ovviamente non sempre questo è possibile, non sempre questo viene fatto, però mi piaceva, a maggior ragione proprio per questo motivo, riproporvi oggi questo podcast, perché mette un po' a fuoco una parte di biodiversità che per ovvie ragioni è più scagata da noi umani, cioè quella di creature molto molto molto piccole, di insomma animali microscopici appunto. Quindi mi piaceva un po' questo aspetto qui. Inoltre mi piaceva anche il fatto che appunto è difficile stabilire, diciamo, misurare, ecco, quale possa essere la biodiversità di un certo luogo, proprio per la ragione che abbiamo appena detto, cioè che se davvero la volessi sapere tutta, avere l'elenco di tutte le specie, beh, sarebbe uno studio immenso, immenso veramente, che dovrebbe mettere in gioco tantissimi studiosi, tantissimo tempo, tantissima analisi, eccetera, eccetera. Quindi spesso quello che viene fatto sono delle stime, e anche di questo spesso magari ci scordiamo, nel senso, sono il tot per cento di biodiversità di questo ecosistema è andato a farsi benedire. Sì, però è comunque una stima probabilmente, perché appunto sono dati molto molto difficili da studiare, da analizzare. Non che con questo io abbia la pretesa di in qualche modo proporvi un metodo che funziona, perché ovviamente non ce l'ho, però diciamo già avere la consapevolezza che quello di cui stiamo parlando è ben più complesso di quanto si magari a volte si tende a pensare. E già mi sembrava utile. In più, cioè, che figata, io non avevo mai sentito parlare dei rotiferi, non so voi, ma a me mi focava un sacco questa cosa. Allora, che dire, la puntata di oggi, di questo lunedì 26 maggio, arriva al termine con un discreto anticipo, ma era previsto, sapevo che sarebbe stata una puntata più corta. E ci va bene così, ogni tanto siamo anche un pochino più leggeri, anche che spesso invece sforo l'1 ora e mezzo e arrivo anche a 2 ore, invece se ogni tanto faccio il contrario va anche bene. Che dire, quindi, vi saluto con ovviamente un ultimo pezzo musicale e vi do appuntamento quindi a lunedì prossimo, sempre qui su Radio Wombat, sempre qui su Nervature, ma mi raccomando, anche ora rimanete connessi sulle nostre frequenze 1359 AM se volete provare a ascoltarci dalle onde radio, se no va bene anche dallo streaming sul sito radiowombat.net. Non dimenticatevi di mandarci salutini sul pad dal link direttawombat.vado.li. Arrivederci a tutte e tutti, buona serata, buon ascolto di quest'ultimo brano. Ciao ciao, lunedì prossimo.